Croci e frammenti, i mille pezzi sotto ai piedi, un equilibrio troppo instabile, fuori controllo. Fruga tra ricordi, ti chiedo di pensarci bene prima di presentarti avanti a me. Mani che si cercano senza sfiorarsi mai, metri di distanze, di vertigini tra noi. Non voglio sapere perché te ne andasti via. Le bocche tacciono, ma gli occhi no. Ricomincerei ad amarti un po'. Ricomincerei. Grandi amori che finiscono in silenzio, mentre quelli brevi nel rumore. Quante cose inutili dette senza ragionare, riaprono capitoli e ferite. Tu davanti a me di nuovo come tempo fa, il vento muove piano i tuoi capelli. Senza più domande, troppo stanchi per sentire sempre le solite risposte. Ricomincerei ad amarti un po'. Ricomincerei. Dammi modo di capire che via d'uscita non.